38. Promesse mantenute. Per il signor Thornton non si trattava del semplice fatto di sapere che Margaret aveva dichiarato il falso, anche se lei immaginava fosse soltanto questo il motivo per cui avesse cambiato così tanto idea su di lei, ma del fatto che tale circostanza appariva ai suoi occhi come l'evidente allusione a un altro pretendente. Non riusciva a cancellare dai ricordi quell'incrocio di sguardi appassionati e sinceri, né l'atteggiamento di intima confidenza, se non di inequivocabile tenerezza. Questo pensiero continuava a pungerlo, continuava ad avere quell'immagine davanti agli occhi, ovunque andasse e qualsiasi cosa facesse. In più, e digrignò i denti mentre lo ricordava, bisognava considerare l'ora, l'oscurità del crepuscolo, quel luogo così lontano da casa e relativamente poco frequentato. Inizialmente la parte più nobile della sua anima l'aveva convinto della casualità, innocenza, legittimità di tali circostanze, e una volta concessole il diritto di amare e di essere amata, aveva forse qualche ragione per negarle quel suo diritto? Non erano state estremamente esplicite le sue parole nel rifiutare il suo amore? Poteva semplicemente essere stata allettata da una passeggiata più lunga fino a fare più tardi del previsto. Ma quella menzogna era la prova fatale di una coscienza peccaminosa che aveva qualcosa da nascondere e che di certo non era da lei. Cercò di giustificarla in tal modo, anche se per tutto il tempo sarebbe stato di conforto per lui crederla completamente immeritevole della sua stima. Fu questo che diede origine alla sofferenza, il fatto che l'amasse appassionatamente e che persino valutando ogni suo difetto la considerasse più affascinante e incantevole di qualsiasi altra donna, e allo stesso tempo la credesse così legata a quest'altro presunto spasimante, talmente travolta dall'amore per lui da violare la sua onestà. Proprio quella menzogna di cui si era macchiata testimoniava quanto ciecamente amasse l'altro, un uomo così tenebroso, slanciato, elegante, attraente. Mentre lui era rozzo, arcigno e robusto, una gelosia feroce lo torturava fino allo spasimo. Pensò a quello sguardo, a quell'atteggiamento, come avrebbe posto la vita ai suoi piedi per sguardi così dolci, per una prigionia così deliziosa. Rise di se stesso per aver dato importanza al gesto meccanico con cui lei lo aveva protetto dalla folla inferocita. Adesso sì che aveva visto come poteva essere affettuosa e adorabile con un uomo che amava davvero. Si ricordò punto per punto l'asprezza delle sue parole. Non c'era uomo tra tutta quella folla per il quale non avrebbe fatto lo stesso molto più prontamente che per lui. Desiderosa com'era di evitare lo spargimento di sangue, lui era solo uno dei tanti, ma quest'uomo, questo innamorato tenuto segreto, era unico. Aveva sguardi, parole, abbracci, bugie, confidenze. Tutti per sé. Thornton era consapevole di non essere mai stato in tutta la sua vita così irascibile come in quel momento. Si sentiva incline a dare risposte secche e concise, più simili a un latrato che a un discorso, a chiunque gli avesse posto una domanda, e questa consapevolezza lo feriva nell'orgoglio. Si era sempre vantato del suo autocontrollo e si sarebbe controllato. Quindi, nella forma, si costringeva a una calma prudenza, ma nella sostanza la cosa si presentava più difficile e seria del normale. Era più silenzioso del solito in casa. Passava le sue serate a camminare continuamente avanti e indietro, il che, se fosse stato un altro a farlo, avrebbe estremamente infastidito sua madre, non più propensa a pazientare per quanto si trattasse dell'adorato figlio. Ti puoi fermare e puoi sederti per un momento? Devo dirti una cosa, se solo la smettessi di camminare, camminare, camminare. Si sedette immediatamente su una poltrona contro la parete. Desidero parlarti di Betsy. Dice che deve lasciarci, che la morte del suo fidanzato l'ha sconvolta così tanto che non riesce a portare avanti il suo lavoro. Ma va bene, suppongo che ci siano altre cuoche al mondo. Tipico ragionamento da uomini. Non si tratta semplicemente di saper cucinare. Il fatto è che lei conosce tutte le abitudini della casa. Inoltre mi ha detto qualcosa sulla tua amica, la signorina Hale. La signorina Hale non è mia amica. Il signor Hale è mio amico. Ma sono contenta di sentirti parlare così, perché se fosse stata tua amica, quello che dice Betsy ti avrebbe infastidito. Sentiamo! disse con quell'atteggiamento estremamente calmo che aveva assunto negli ultimi giorni. Betsy dice che la sera in cui suo fidanzato, non mi ricordo il suo nome perché lo chiama sempre lui, Leonards, sì, la sera in cui Leonards era stato visto per l'ultima volta in stazione, di fatto l'ultima volta che l'avevano visto in servizio, la signorina Hale era lì e passeggiava con un giovane che secondo Betsy ha ucciso Leonards con un colpo o una spinta. Leonards non è stato ucciso da un colpo o una spinta. E come lo sai? Perché io stesso ho domandato esplicitamente della questione al medico dell'ospedale. Mi ha confermato che Leonards aveva un male interno di vecchia data, provocato dall'abitudine del bere. Il suo rapido aggravarsi dovuto allo stato di ubriachezza ha chiarito il dubbio circa la causa dell'attacco fatale, se dovuto all'alcol o alla caduta. La caduta? Quale caduta? Quella causata dal colpo o dalla spinta di cui parla Betsy. Ah, quindi c'è stato un colpo o una spinta? Credo di sì. E chi è stato? Ma, dato che il parere del medico ha determinato l'inutilità di alcun tipo di inchiesta, non saprei dirvelo. Ma la signorina Hale era lì? Nessuna risposta. Era lì con un giovane? Ancora nessuna risposta. Alla fine disse: Vi dico, madre, che non si è svolta alcuna inchiesta di nessun tipo. Nessuna inchiesta giudiziaria, intendo. Betsy dice che Woolmer, un tipo che conosce, che lavora dal droghiere là a Crampton, può giurare che la signorina Hale fosse alla stazione a quell'ora e che passeggiasse su e giù in compagnia di un giovane. Ma non vedo che cosa questo abbia a che fare con noi. La signorina Hale è libera di fare ciò che le pare. Sono contenta di sentirti parlare così, disse la signora Thornton con un certo entusiasmo. Sicuramente ha ben poca importanza per noi, soprattutto per te, dopo quello che è successo. Ma io ho fatto una promessa alla signora Hale, che non avrei mai permesso alla figlia di comportarsi in modo disdicevole senza protestare o darle consigli. Le farò sicuramente sapere cosa penso di un simile comportamento. Ah, non vedo nulla di male, madre, in quello che ha fatto quella sera, disse Thornton, alzandosi e avvicinandosi alla madre. Stava in piedi, vicino al caminetto, con la faccia rivolta dall'altra parte. Ma non avresti approvato se avessero visto Fanny fuori, col buio, in un luogo piuttosto isolato, a passeggiare con un giovane, no? Non mi pronuncio sul cattivo gusto di scegliere un simile momento, mentre la madre non era ancora sepolta, per una passeggiata di quel tipo. Ti avrebbe fatto piacere se tua sorella fosse stata notata dal commesso di un droghiere in un atteggiamento simile? In primo luogo, dal momento che non sono passati molti anni da quando io stesso ero un commesso di un drappiere, il semplice fatto che sia stato il commesso di un droghiere a notare un qualsiasi tipo di azione non cambia per me la natura dell'azione. In secondo luogo, colgo un'enorme differenza tra la signorina Hale e Fanny. Posso immaginare che la prima abbia forse delle valide ragioni per le quali potrebbe essere necessario e doveroso chiudere un occhio sul suo comportamento apparentemente sconveniente. Per quanto ne so io, Fanny non ha mai avuto valide ragioni per nulla. Piuttosto, altre persone devono badare a lei. Io credo che la signorina Hale sappia badare a se stessa. Oh, proprio una bella considerazione di tua sorella. Davvero, John, lo penserebbe chiunque che la signorina Hale abbia già fatto abbastanza per farti aprire gli occhi. Ti ha spinto a farle una proposta di matrimonio, dimostrando sfacciatamente un presunto interesse per te, per metterti contro questo giovane uomo qui, non ho dubbi. Tutto il suo comportamento mi è molto chiaro adesso. Suppongo tu creda sia il suo pretendente, su questo siamo d'accordo. Thornton si girò verso la madre. Il suo volto era particolarmente scuro e torvo. Sì, madre, credo proprio che sia il suo pretendente. Dopo aver parlato, si voltò di nuovo, si contorceva in tutto il corpo come per un dolore fisico, teneva il viso appoggiato a una mano, poi, prima che lei potesse aprir bocca, riprese i suoi modi bruschi. Madre, chiunque sia, si tratta del suo innamorato. Tuttavia, potrebbe aver bisogno di aiuto e del consiglio di una donna. Forse ci sono difficoltà o tentazioni che non conosco. Temo ci siano. Non voglio sapere di che si tratta, ma poiché voi siete sempre stata una buona madre, anzi, una madre affettuosa con me, andate da lei, lasciate che si confidi e ditele che cosa è meglio fare. Sento che c'è qualcosa che non va, qualche timore, e per lei deve essere una terribile tortura. Per l'amor del cielo, John, disse sua madre, ora davvero sconvolta. Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Che cosa sai? Lui non rispose. John, non so che cosa devo pensare se non parli. Non hai nessun diritto di dire quello che hai detto contro di lei. Non contro di lei, madre. Non potrei parlare contro di lei. Beh, non hai nessun diritto di dire quello che hai detto a meno che tu non dica di più. Sono queste mezze allusioni che rovinano la reputazione di una donna. La sua reputazione, madre, non permettetevi. Tornò indietro e la guardò dritto in faccia con occhi infuocati. Poi, raddrizzandosi e assumendo una compostezza risoluta e dignitosa, disse: Non aggiungerò altro a ciò che ho detto, che non è niente di più e niente di meno della pura verità, e sono sicuro che mi credete, ho buone ragioni per ritenere che la signorina Hale si trovi in qualche seria difficoltà che ha a che fare con un legame che di per sé, conoscendo la signorina Hale, è del tutto innocente e onesto. Quale sia la mia ragione, non voglio dirlo, ma fate in modo che io non senta mai, mai nessuno dire neanche una parola contro di lei, che insinui una qualche accusa ancora più seria di quella per la quale ha bisogno adesso del consiglio di una donna benevola e gentile. Avete promesso alla signora Hale di essere quella donna? No, disse la signora Thornton. Sono felice di comunicarti che non ho promesso né benevolenza né gentilezza, perché all'epoca sentivo che probabilmente non ce l'avrei fatta a usarle nei confronti della signorina Hale, con quel carattere e quel temperamento che ha. Ho promesso pareri e consigli, gli stessi che darei a mia figlia. Le parlerò come farei con Fanny se è davvero andata in giro a divertirsi con un giovanotto di notte. Le farò un discorso facendo riferimento ai fatti che conosco, senza essere influenzata in un modo o nell'altro dalle valide ragioni che non mi vuoi confidare. Così avrò mantenuto la mia promessa e fatto il mio dovere. Non lo accetterà mai, disse con trasporto. Dovrà se parlerò per conto della sua povera madre. Bene. Disse allontanandosi, non ditemi più niente al riguardo, non riesco a tollerarne neanche il pensiero. In ogni caso è meglio che le parliate voi piuttosto che non le parli nessuno. E mentre chiudeva con il chiavistello la porta di camera sua, oh, quello sguardo innamorato, disse ancora tra i denti, e quella maledetta menzogna che ha smascherato la terribile colpa che si nascondeva nell'ombra, tanto da allontanarla per sempre dalla luce nella quale pensavo vivesse. Oh, Margaret, Margaret, madre, perché mi avete torturato tanto? Oh, Margaret, non potevate amare me. Sono un uomo rude e insensibile, ma mai vi avrei portata a dichiarare il falso per me. Più la signora Thornton ripensava alle parole del figlio, supplicandola di essere misericordiosa nel giudicare l'imprudenza di Margaret, maggiore era la spinta ad andare da lei. Provava un estremo piacere all'idea di dirle quello che pensava, compiendo apparentemente un dovere. La divertiva il pensiero di mostrarsi indifferente a quel fascino che, lo sapeva bene, Margaret aveva il potere di esercitare su molte persone. Sbuffò in modo sprezzante alla bellezza della sua vittima. I suoi capelli corvini, la pelle chiara e liscia, gli occhi luminosi non sarebbero serviti a risparmiarle una sola parola del severo e giusto rimprovero che la signora Thornton impiegò quasi tutta la notte a preparare nella sua mente. E in casa la signorina Hale? Sapeva che lo fosse perché l'aveva scorta alla finestra e aveva già messo piede nell'ingresso prima che Marta avesse abbozzato una risposta. Margaret era seduta da sola e stava scrivendo a Edith, riportandole il resoconto degli ultimi giorni della madre. Era un'occupazione che la commuoveva e dovette asciugarsi le lacrime che le erano scese spontanee quando fu annunciata la signora Thornton. Il suo modo di accogliere l'ospite fu così gentile e raffinato che la signora Thornton in qualche modo si scoraggiò e le fu proprio impossibile pronunciare quel discorso che era stato così facile preparare finché non aveva avuto davanti nessuno a cui indirizzarlo. La voce profonda e piena di Margaret era più delicata del solito, i suoi modi più aggraziati perché in cuor suo si sentiva molto grata alla donna per la cortese premura della visita. Si sforzò di rendere interessante la conversazione. Aveva lodato Martha, la domestica che la signora Thornton aveva trovato loro, e raccontò di aver chiesto a Edith dell'aria della Grecia di cui aveva parlato alla signorina Thornton. La signora era alquanto sconcertata. La sua tagliente spada di Damasco sembrava fuori luogo e così inutile per fronteggiare quel bocciolo di rosa. Non parlava perché stava cercando di prepararsi a compiere il suo dovere. Alla fine fu spinta ad agire da un sospetto a cui, per quanto poco probabile, aveva permesso di attraversarle la mente, che tutta questa dolcezza fosse una messa in scena con l'intenzione di ingraziarsi il signor Thornton, che in qualche modo il sentimento per l'altro fosse sfumato e che alla signorina Hale facesse comodo far ritornare il pretendente che aveva rifiutato. Povera Margaret. Forse quel sospetto aveva davvero un fondo di verità. La signora Thornton era la madre di una persona la cui stima era importante per lei e che temeva di aver perso. E questo pensiero inconsciamente si aggiunse al naturale desiderio di compiacere una persona che si era dimostrata gentile andando a farle visita. La signora Thornton si alzò in piedi per andarsene, ma allo stesso tempo sembrava volesse dire altro. Si schiarì la gola e cominciò: «Signorina Hale, ho un dovere da compiere. Ho promesso alla vostra povera mamma che in base al mio misero giudizio non vi avrei lasciata agire in modo sbagliato, oppure...» E qui smorzò leggermente il tono del suo discorso, oppure imprudente, senza protestare, o perlomeno senza offrire un consiglio che voi lo seguiate o meno. Margaret le stava di fronte, arrossendo come un qualsiasi colpevole, con le pupille che le si dilatavano mentre la fissava. Pensò che fosse venuta per parlarle della menzogna che aveva detto, che il signor Thornton l'avesse ingaggiata per spiegare il pericolo al quale lei si era esposta, quello di essere contraddetta davanti a tutti in tribunale, e anche se si sentì morire al pensiero che non aveva preferito andare lui di persona a rimproverarla, ad accogliere le sue scuse e a ristabilire la sua buona opinione di lei. Allo stesso tempo era stata troppo mortificata da non riuscire a sopportare più nessuna accusa sull'argomento in modo docile e paziente. La signora Thornton continuò: «Inizialmente, quando ho saputo da una delle mie domestiche che eravate stata vista passeggiare con un gentiluomo in un luogo così lontano da casa come la stazione di Outwood a quell'ora della sera, ho stentato a crederci. Tuttavia mio figlio, mi dispiace dirlo, ha confermato il racconto. È stato a dir poco imprudente. Molte giovani donne hanno perso la reputazione in passato.» Margaret la fulminò con lo sguardo. Quest'idea era nuova. Questo era un insulto troppo grande. Se la signora Thornton le avesse parlato della bugia che aveva detto, non avrebbe avuto alcun problema ad ammetterla e si sarebbe umiliata, ma avere da ridire sul suo comportamento. Parlare della sua reputazione. Lei, la signora Thornton, una semplice estranea, che insolenza! Non le avrebbe risposto nulla, neanche una parola. La signora intravide negli occhi della giovane uno spirito combattivo che ridestò anche la sua aggressività. Per amore di vostra madre, ho ritenuto giusto mettervi in guardia contro tali indiscrezioni. A lungo andare vi svilirebbero agli occhi di tutti, anche se di fatto non vi portano nessun danno concreto. Per amore di mia madre, disse Margaret con voce rotta dalle lacrime, sopporto molto, ma non posso sopportare ogni cosa. Lei di certo non avrebbe mai voluto che venissi insultata, ne sono sicura. Insultata, signorina Hale? Sì, signora, disse Margaret in tono più risoluto. È un insulto. Che cosa sapete di me da poter sospettare? Oh! E disse, scoppiando a piangere, coprendosi il viso con le mani. Ora capisco, il signor Thornton vi ha detto. No, signorina Hale, disse la signora Thornton, fermando, perché era onesta, la confessione che Margaret era sul punto di fare, sebbene avesse una gran curiosità di sapere. Fermatevi. Il signor Thornton non mi ha detto nulla, non conoscete mio figlio, non siete degna di conoscerlo, questo mi ha detto. Ascoltate, signorinella, così forse capirete se ci riuscite quale uomo avete rifiutato. Questo industriale di Milton, dal cuore grande e tenero, respinto come è stato respinto, mi ha detto ieri sera: andate da lei, ho buone ragioni di credere che sia in difficoltà, difficoltà che derivano da un qualche legame e ha bisogno dei consigli di una donna. Credo che le sue parole siano state proprio queste, e non solo. Oltre ad ammettere il fatto che eravate alla stazione di Outwood con un gentiluomo la sera del 26, non ha detto altro, non una parola contro di voi. Se sa di qualcosa che vi fa piangere così, se la tiene per sé. Margaret aveva ancora la faccia nascosta nelle mani. Le dita erano bagnate di lacrime. La signora Thornton si era un po' rabbonita. «Su, via, signorina Hale, ci possono essere circostanze, e lo concedo, che se spiegate possono illuminare una situazione apparentemente indecente». Ancora nessuna risposta. Margaret stava riflettendo su cosa dire. Desiderava mantenere buoni rapporti con la signora Thornton e allo stesso tempo non sapeva, non poteva dare una qualche spiegazione. La signora Thornton si spazientì. «Mi rincresce dover rompere un'amicizia, ma per il bene di Fanny, come ho detto a mio figlio, se Fanny si fosse comportata così lo considereremmo un'enorme disgrazia e Fanny potrebbe essere traviata». «Non posso darvi nessuna spiegazione», disse Margaret con un filo di voce. «Ho sbagliato, ma non nel modo che voi pensate o sapete. Credo che signor Thornton abbia più misericordia di voi nel giudicarmi». Aveva un bel da fare per riuscire a respirare tra le lacrime, ma credo, signora, che le vostre intenzioni siano state buone. «Vi ringrazio», disse la signora Thornton raddrizzando la schiena. «Non pensavo che il mio scopo venisse messo in dubbio. È l'ultima volta che mi intrometto. Ero contraria a farlo quando vostra madre me lo ha chiesto. Non ho mai approvato i sentimenti di mio figlio per voi, neanche quando il mio era solo un sospetto. Non mi sembravate degna di lui. Tuttavia, quando vi siete compromessa, come avete fatto durante la sommossa, e vi siete esposta ai commenti dei domestici e degli operai, ho sentito che non era più giusto pormi al desiderio di mio figlio di chiedervi in moglie. Un desiderio, tra l'altro, che aveva sempre rifiutato di prendere in considerazione fino al giorno della rivolta». Margaret trasalì e sibilò un lungo respiro del quale comunque la signora Thornton non si accorse. «È venuto qui? E voi avevate apparentemente cambiato idea. Ho detto a mio figlio ieri che ho pensato possibile, considerato il breve lasso di tempo, che abbiate magari sentito o saputo qualcosa di quest'altro pretendente. Che cosa volete insinuare di me, signora?» chiese Margaret buttando la testa all'indietro con fiero disprezzo fino a curvare il collo in avanti come quello di un cigno. «Non serve che diciate altro, signora Thornton. Rifiuto ogni tentativo di giustificarmi per qualcosa. Permettete che lasci la stanza». E uscì, in modo fiero, con la grazia silenziosa di una principessa offesa. La signora Thornton aveva per natura abbastanza spirito da capire il ridicolo della situazione in cui era stata lasciata. Non poteva far nulla se non uscire di scena. Non era particolarmente infastidita per il modo in cui si era comportata Margaret. Non le importava abbastanza di lei per esserlo. La ragazza aveva colto interamente la protesta della signora Thornton, prendendola molto a cuore come quella signora si aspettava, e l'ardore di Margaret rabbonì improvvisamente la sua ospite, molto più di quanto avrebbero potuto fare il silenzio e il riserbo. Dimostrava infatti l'effetto che le sue parole avevano avuto sulla giovane. «Cara la mia signorina», pensò tra sé la signora Thornton, «avete un bel caratterino. Se voi e John vi foste sposati, avrebbe dovuto tenervi a bada per farvi stare al vostro posto. Tuttavia non credo che avrete di nuovo tanta fretta di andare a passeggio con il vostro ammiratore a quell'ora. Siete troppo orgogliosa e intelligente per farlo. Mi piace vedere una ragazza che scatta all'idea che si parli di lei. Dimostra di non essere né sconsiderata né sfacciata per natura. Quanto a quella ragazza, potrà essere sfacciata, ma non sarebbe mai sconsiderata. Questo glielo riconosco. Ora, quanto a Fanny, lei sì che sarebbe sconsiderata e non sfacciata. Non ha fatto coraggio, poverina». Thornton non stava trascorrendo la mattinata in modo così soddisfacente come la madre. Lei, in qualche modo, stava raggiungendo lo scopo che si era prefissata. Lui stava cercando di capire la sua situazione, ovvero quale danno gli avesse arrecato lo sciopero. Una buona parte del suo capitale era vincolata in nuovi e costosi macchinari e aveva per giunta acquistato molto cotone con la prospettiva di alcuni grossi ordini che aveva in corso. A causa dello sciopero era rimasto terribilmente indietro con l'ultimazione di tali ordini. Anche con i suoi soliti e abili operai avrebbe avuto qualche difficoltà nel mantenere gli impegni presi. Per come stavano le cose, l'incompetenza della sua manodopera irlandese, che doveva imparare il lavoro in un periodo che richiedeva un'attività eccezionale, procurava quotidiani disagi. Non era un buon momento per Higgins per avanzare la sua richiesta, ma aveva promesso a Margaret che l'avrebbe fatto a qualunque costo, e così, anche se col passare dei minuti la ripugnanza, l'orgoglio e la scontrosità del suo carattere aumentavano, stava in piedi, appoggiato contro il muro cieco, ora dopo ora, prima su una gamba, poi sull'altra, e finalmente il chiavistello venne sollevato bruscamente e il signor Thornton uscì. Desidero parlarvi, signore. Non posso fermarmi adesso, buon uomo, sono proprio in ritardo. Allora, signore, penso che possa aspettare che tornate. Il signor Thornton era arrivato a metà strada. Higgins sospirò, ma non servì. Raggiungerlo per strada era l'unica possibilità di incontrare il padrone. Se avesse suonato la campanella della portineria o anche se fosse arrivato fino a casa sua a chiedere di lui, gli avrebbero detto di rivolgersi al sorvegliante. Così rimase di nuovo fermo, senza degnare di una risposta ai pochi operai che conosceva e che gli parlavano, ma facendo loro un piccolo cenno di saluto mentre la folla usciva dal cortile della fabbrica all'ora di cena, e guardando torvamente i crumieri irlandesi che erano appena stati importati. Finalmente il signor Thornton fu di ritorno. Come? Sei ancora qui? Già, signore, devo parlarvi. Beh, vieni dentro allora. Aspetta, attraversiamo il cortile. Gli operai non sono rientrati e a nostra completa disposizione. Questa brava gente, vedo, è a cena, disse chiudendo la porta della casetta del portiere. Si fermò a parlare con il sorvegliante. Quest'ultimo disse sottovoce: Spero sappiate, signore, che quell'uomo è Higgins, uno dei capi del sindacato, quello che ha tenuto quel discorso a Hartsfield. No, non lo sapevo, replicò il signor Thornton lanciando un'occhiata furtiva all'uomo dietro di lui. Lo conosceva di nome Higgins, per essere uno spirito ribelle. Seguimi, disse, e il suo tono adesso era più duro rispetto a prima. Sono uomini come questo, pensò, che bloccano il commercio e danneggiano la stessa città in cui vivono, puri demagoghi, avidi di potere, senza alcuno scrupolo. Dunque, che cosa vuoi da me? Chiese Thornton girandosi verso di lui appena furono nell'ufficio dello stabilimento. Mi chiamo Higgins. Lo so, lo interruppe il signor Thornton. Che cosa vuoi, Higgins? Questa è la domanda. Voglio un lavoro. Un lavoro? Ah, sei proprio un bel tipo a venirmi a chiedere un lavoro. La sfrontatezza non ti manca, questo è chiaro. Ne ho di nemici e ne conosco di calunniatori, come i miei superiori, ma non ho mai sentito nessuno di loro darmi dello sfrontato, disse Higgins. Si era un po' scaldato per i modi del signor Thornton, più che per le sue parole. Thornton vide sul tavolo una lettera indirizzata a lui, la prese e la lesse. Alla fine alzò lo sguardo e disse: Che cosa stai aspettando? Una risposta alla domanda che ho fatto. Te l'ho data prima, non perdere altro tempo. Avete fatto un commento sulla mia sfacciataggine. Ma mi è stato insegnato che è educazione dire sì o no quando ti chiedono cortesemente qualcosa. Vi sono grato se mi date un lavoro. Humper vi può dire che sono un bravo operaio. Secondo me faresti meglio a non mandarmi da Humper per referenze. Potrei sentire più di quello che vorresti. Correrai il rischio. La cosa peggiore che possono dire di me è che ho fatto sempre quello che secondo me era meglio, anche se a mio danno. Faresti meglio di andare da loro allora e provare a vedere se ti danno un posto. Ho licenziato più di 100 dei miei migliori operai per nessun'altra colpa se non quella di seguire te e quelli come te. E pensi che ti assumerò? Tanto vale mettere un tizzone in mezzo agli scarti del cotone. Higgins fece per andarsene, poi, sopraffatto dal ricordo di Boucher, si voltò con la più grande concessione che riuscì a convincersi di fare. Ve lo prometto, signore, non direi nessuna parola che può fare danni, se magari ci trattate nel modo giusto, e prometto di più, prometto che quando vedo che state sbagliando e state agendo in modo scorretto, vi parlerei prima in privato, e sarebbe un avvertimento giusto. Se voi e io abbiamo opinioni diverse sul vostro comportamento, potete licenziarmi con un'ora di preavviso. Caspita, non sei affatto modesto. Che perdita devi essere stato per Humper. Come mai si è lasciato scappare te e la tua saggezza? Ti Beh, ci siamo salutati con malcontento reciproco. Io non volevo impegnarmi come chiedevano loro e loro non volevano assumermi in nessun altro modo. Quindi sono libero di essere assunto da qualcun altro. E come ho detto prima, anche se non dovrei dirlo, sono un bravo operaio, padrone, e un uomo affidabile, specialmente quando sto lontano dall'alcol. E se prima non lo facevo, adesso lo faccio. Così potrei mettere da parte dei soldi per un altro sciopero, suppongo. No. Sarei contento di essere libero di farlo. È per mantenere la vedova e i figli di un uomo che è diventato matto per colpa dei vostri crumiri, cacciato via dal suo posto da un irlandese che non sa distinguere la trama dall'ordito. Beh, faresti meglio a cambiare mestiere. Se hai un così buon proposito in mente, non ti consiglierei di restare a Milton. Sei troppo conosciuto qui. Se eravamo in estate, disse Higgins, mi sarei messo a fare il lavoro degli irlandesi e sarei andato a fare il marinaio. O fare fieno o altro, e Milton non l'avrei rivista mai più, ma è inverno e i bambini moriranno di fame. Ah, proprio un bel marinaio saresti. Scommetto, non reggeresti a zappare neanche mezza giornata in confronto a un irlandese. E io per 12 ore me ne faccio pagare 6, se son buono a fare solo il lavoro di mezza giornata. Ma voi non lo conoscete un posto dove me la fanno fare una prova lontano dalle fabbriche, visto che mi vedete solo come un agitatore? Accetterei qualsiasi salario che pensano che valgo per il bene di quei bambini. Ma non ti rendi conto di quello che saresti? Saresti un crumiro. Prenderesti meno soldi degli altri lavoratori, tutto per il bene dei figli di un altro. Pensa come maltratteresti ogni poveretto che fosse intenzionato a prendere quello che trova per mantenere i suoi propri figli. Tu e il tuo sindacato gli dareste subito addosso. No, no, fosse solo per il ricordo di come avete trattato i poveri crumiri in passato, rispondo no alla tua domanda. Non ti darò il lavoro. Non dico di non credere al pretesto che ti ha portato a chiedere il lavoro, non ne so niente. Forse è vero, forse no. Ad ogni modo è una storia molto improbabile. Ma lasciamo perdere, non ti darò alcun lavoro. Eccoti la risposta. Ho sentito, signore. Non vi avrei disturbato, ma me lo ha chiesto qualcuno, uno che sembra credere che ci avete un po' di tenerezza dentro al vostro cuore. Lei si è sbagliata e io sono stato imbrogliato. Non sono il primo uomo che viene imbrogliato da una donna. Beh, dile di farsi gli affari propri la prossima volta, invece di farti perdere tempo e farmi perdere il mio. Penso che le donne siano alla base di tutte le piaghe di questo mondo. Togliti di mezzo. Vi sono grato per la vostra gentilezza, padrone. E soprattutto per il vostro modo civile di darmi l'arrivederci. Il signor Thornton non si degnò di rispondere, ma guardando fuori dalla finestra un minuto dopo, fu colpito dalla figura asciutta e ricurva che usciva dal cortile. Quella fatica nel camminare contrastava con la determinazione chiara e risoluta dell'uomo che gli aveva parlato. Attraversò il cortile e andò dal portiere. Quanto ha aspettato quel Higgins per parlare con me? Era fuori dal cancello prima delle 8, signore. Penso che sia rimasto lì da quell'ora. E adesso sono le 1 in punto, signore. 5 ore, pensò il signor Thornton. È parecchio tempo per un uomo che aspetta, che non può fare altro che sperare e temere.